Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questa nostra giornata di mercoledì 19 febbraio, mentre il governo nelle sue fibrillazioni dà sempre un spettacolo terribile di se stesso e la maggioranza vacilla e ovviamente la minoranza di centrodestra sente il sangue elettorale, ma noi andiamo subito a Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Bullets, mercoledì 19 febbraio 2020. I titoli di oggi. Coronavirus, 2000 le vittime in Cina. Stati Uniti, animaliste in topless interrompono due comizi di Sanders. Escalation nel Donbass, ci sono vittime. Brexit, nella bozza di intesa anche la restituzione delle antichità. In Bosnia, 4000 persone sospettate di crimini di guerra devono ancora essere processate. Messico, ucciso una bambina di 7 anni e dopo 8 anni riaprono l'aeroporto e l'autostrada di Aleppo. Turchia, resta in carcere Osman Kavala, simbolo dell'opposizione a Erdogan. Questo è il notiziario quotidiano di Radio Bullets e io sono Angela Gennaro, da Roma insieme a Giancarlo Castelli oggi. Con noi Yulia Kalashnik in collegamento da Kiev e Paola Miranda da Lipsia in Germania. Il bilancio delle vittime dell'epidemia del nuovo coronavirus in Cina è salito a 2000, dopo la morte di 132 persone nella provincia di Hubei, focolaio dell'infezione. Nell'aggiornamento quotidiano, dice la France Presse, la commissione sanitaria della provincia ha anche riportato 1693 nuovi contagi. Ti sosteniamo, ma non appoggiare più gli allevatori. Due comizi di Bernie Sanders a Richmond in California e a Carson City in Nevada sono stati interrotti dal blitz di alcune animaliste in topless. Sono salite sul palco, hanno provato a prendere il microfono al senatore, candidato favorito alle primarie Dem in vista delle presidenziali, si sono dette sue sostenitrici, ma lo hanno anche invitato a fare di più per gli allevatori, colpevoli a loro dire di maltrattare vitelli e mucche. Una delle attiviste si è anche versata in testa del sangue finto. Questo è il Nevada, c'è sempre un po' di eccitazione senza costi extra, ha replicato Sanders. In Bosnia ci sarebbero 4000 persone sospettate di crimini di guerra che devono ancora essere processate e, spiega la procuratrice capo Gordana Tadic, non sarà possibile farlo se non verrà approvata la normativa che prevede il trasferimento dei procedimenti dal Tribunale Statale alle corti inferiori. Tadic ha ricordato che sono state incriminate più di 800 persone e che sono state comminate pene per oltre 3700 anni di prigione per quanto successo nel corso della guerra del 1992-95. Restano ancora però da processare 499 casi con più di 4000 persone. Stai ascoltando Radio Bullets. Escalation nel Donbass. Le truppe filorusse bombardano le posizioni ucraine con armi proibite dagli accordi di Minsk. Ci sono morti e feriti. La Russia ha preso le distanze dall'accaduto. Ci aggiorna Yulia Kalashnik da Kiev. C'è un po' di agitazione per questa inaspettata escalation nel Donbass. Sembrava che la pace fosse vicina dopo i negoziati tra Putin e Zelensky. Invece ieri in mattinata le posizioni delle forze ucraine sono state bombardate dai militanti filorussi. Come riporta il Ministero della Difesa dell'Ucraina, le posizioni ucraine sono state bombardate con le armi proibite dai accordi di Minsk, tra cui mortai da 120 mm, varie lanciagranate e mitragliatrici pesanti. Il Ministero della Difesa sostiene che con la scusa del bombardamento le forze militanti siano passate all'offensiva, cercando di sfondare la linea della separazione. Un soldato ucraino è stato ucciso e altri quattro sono rimasti feriti. La Russia reagisce all'accaduto e respinge qualsiasi accusa. Dmitry Peskov, il segretario stampa del Cremlino, Così avrebbe commentato la situazione. Speriamo che prossimamente sarà possibile chiarire i dettagli sull'escalation nel Donbass. Dopodiché potremo trarre qualche conclusione. Il Tribunale dell'Aia ha ribadito una vecchia condanna alla Russia a risarcire il magnate Khodorkovsky e altri azionisti della disciolta holding petrolifera Yukos. Giancarlo Castelli ci spiega cosa è successo. La Corte d'Appello olandese dell'Aia ha inflitto una vera e propria stangata pecuniaria alla Federazione Russa, pari a 50 miliardi di dollari, come compensazione a favore dell'allora presidente della Yukos, Mikhail Khodorkovsky, e degli ex azionisti. La Yukos, holding russa del petrolio andata in bancarotta nel 2006, era stata acquistata in quote di maggioranza dalla banca Menatep dello stesso Khodorkovsky tra il 1995 e il 1996 e poi trasformata in una vera e propria potenza nel campo delle energie. L'oligarca venne arrestato nel 2003 con l'accusa di frode fiscale. In realtà era quello il periodo in cui Putin aveva siglato una pax politica con gli oligarchi che si erano arricchiti col saccheggio delle risorse pubbliche, avvenuto negli anni della presidenza Yeltsin. Quel patto lasciava una certa libertà imprenditoriale ai nuovi magnati, l'importante è che non scendessero in politica, interferendo così dall'alto del loro potere economico con le scelte del Cremlino. Alcuni di loro, come Vladimir Gusinski e Boris Berezovsky, che pure all'inizio avevano finanziato l'ascesa politica di Putin, fuggirono all'estero, diventando dall'esilio un punto di riferimento per l'opposizione. Khodorkovsky, il più ricco di tutti, tentò l'azzardo, cercando accordi con le compagnie petrolifere americane ExxonMobil, Chevron e Texaco attraverso i suoi buoni uffici col potente uomo di George Bush, Dick Cheney, per mettere così al sicuro alcune quote della Yukos vendendola agli americani. Qualcosa andò storto e il 25 ottobre del 2003 Khodorkovsky venne arrestato all'aeroporto di Tolmacevo, vicino Novosibirsk, e poi detenuto per lungo tempo nelle carceri siberiane fino alla scarcerazione avvenuta anzitempo nel 2003. Nella sentenza pronunciata oggi dal tribunale olandese si afferma che la bancarotta venne pilotata dal Cremlino per far fuori il magnate dalla disputa politica. La Yukos, in seguito a quelle vicende, venne spacchettata, messa all'asta e per la gran parte riacquistata dalla società di Stato Rosneft. Da Mosca hanno annunciato ricorso contro la decisione del tribunale, che ha anche disposto l'eventuale sequestro dei beni di Stato russi all'estero per dare esecuzione al provvedimento. Radio Bullets, le notizie che frantumano il silenzio. Paola Miranda, da Lipsia. Domenica, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore a Berlino il regolamento che impone un tetto al prezzo degli affitti per i prossimi 5 anni. La misura era stata deliberata dal Senato di Berlino, guidato da una coalizione tra SPD, Linke e Verdi. Ma ieri il parlamentare della CDU, Jan-Marco Luxak, ha annunciato che il suo partito ha raggiunto la quota di deputati del Bundestag necessaria per rivolgersi all'Alta Corte di Karlsruhe per un giudizio di costituzionalità. Oltre a 190 parlamentari della CDU hanno firmato la richiesta anche i parlamentari del Freie Demokraten Partei, e quindi la soglia di 178, cioè un quarto del Bundestag, è stata ampiamente superata. La normativa berlinese è la prima nella Germania e potrebbe venir presa come esempio anche da altre città. In molti grandi agglomerati sud della Germania i prezzi degli affitti stanno ormai crescendo a un ritmo più alto dei salari, sia abitativa uno dei grandi temi della politica. Nei sondaggi questa risulta tra le preoccupazioni maggiori dei cittadini. L'ultima bozza dell'intesa sulla Brexit, dice il Telegraph, conterrebbe una clausola richiesta dall'Unione Europea relativa alla restituzione di oggetti culturali rimossi illegalmente nei loro paesi di origine. Si potrebbe parlare quindi dei marmi greci e dei fregi del Partenone conservati al British Museum e di tanti capolavori italiani conservati nel Regno Unito. A chiederne l'inserimento della clausola sarebbero stati in particolare Italia, Grecia, Cipro e Spagna. Radio Bullets, le notizie che frantumano il silenzio. E l'uccisione di una bambina di 7 anni nella periferia sud di Città del Messico sta suscitando una rabbia crescente nel paese per i sempre più brutali femminicidi. Una donna è stata trovata pugnalata a morte scuoiata all'inizio di questo mese. L'ufficio del procuratore della città ha dichiarato lunedì scorso che gli investigatori hanno identificato nel corpo trovato nel fine settimana Fatima una studentessa di scuola elementare rapita da sconosciuti l'11 febbraio scorso. Il corpo della bambina è stato trovato avvolto in una borsa e abbandonato sabato in una zona rurale. Non è stata comunicata la causa della morte, mentre 5 persone sono state interrogate e ci sarebbero dei filmati del rapimento. In Siria, dopo 8 anni di guerra, riapre l'ultimo tratto dell'autostrada Damasco-Aleppo, rimasto chiuso fino a questo momento, e torna a funzionare anche l'aeroporto della città. Oggi il primo volo di linea nazionale che raggiungerà la capitale Damasco ed è previsto nei prossimi giorni il primo aereo diretto al Cairo. Osman Kavala, simbolo dell'opposizione al presidente turco Erdogan, è stato assolto a sorpresa nel processo Gezi Park, insieme a tutti gli altri imputati presenti, ma dopo 840 giorni di carcerazione preventiva, carcerazione che è stata stigmatizzata anche dalla Corte Europea dei Diritti Umani, resta in cella perché subito dopo la procura di Istanbul ha emesso un nuovo mandato d'arresto nell'ambito di indagini sul fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016. Per cui in queste ore è stata compiuta la più grande retata da mesi con centinaia di arresti. E anche per oggi con il notiziario di Radio Bullets è tutto, non perdetevi le nostre rubriche e tutti gli aggiornamenti sul nostro sito. Io vi do appuntamento la prossima settimana e vi ricordo come sempre che potete partecipare al nostro progetto di giornalismo indipendente andando su radiobullets.com/sostienici. Buona giornata! segmento del mitico gruppo progressive rock Ken, ma andiamo adesso ancora agli echi della manifestazione di pomeriggio a favore della libertà e giustizia per Patrick Zaki, perché dopo la partecipazione di massa lunedì scorso a Bologna nel corteo continuano comunque le mobilitazioni per chiedere la liberazione di questo ragazzo imprigionato nelle prigioni di El Sisi. In particolare Amnesty International fa appello ai tifosi, giocatori del Bologna Football Club ed un gruppo di docenti universitari propone la sospensione della didattica. E quindi ascoltiamo le parole di Francesca Santoro di Amnesty International e del docente Nico Staiti. Una delle poche cose che nell'ultimo incontro Patrick è riuscito a dire ai suoi legali e ai familiari è stato appunto forza Bologna. Non sappiamo se nel particolare, sappiamo che lui è un grande tifoso del Bologna, forse questa frase aveva un molteplice significato, ecco, perché lui sa quanto sostegno gli sta arrivando da Bologna, però i giocatori del Bologna ne hanno approfittato, diciamo, ovviamente in senso bonario, e hanno fatto un tweet per manifestare il loro sostegno invece a Patrick, e per questo con Amnesty ma anche con altre realtà abbiamo richiesto ai giocatori che scenderanno in campo il 22 febbraio, quindi lo stesso giorno dell'udienza di Patrick, di manifestare il loro sostegno come possono, con degli striscioni, una scritta sulle magliette, insomma quello che vogliono fare, perché comunque sarebbe un segnale molto importante, anche simbolicamente molto bello. Sappiamo che la tifoseria del Bologna, insomma, è anche abbastanza attenta a questioni sociali, è spesso intervenuta ad esempio sul caso di Federico Aldrovandi. Avete già avuto primi riscontri? Al momento ancora no, non ci hanno dato una risposta diretta, non so se hanno già visto in realtà l'appello, perché a quanto mi risulta è stato lanciato ieri sera, quindi poco dopo comunque il loro tweet. Diciamo che siamo appunto abbastanza speranzosi, proprio perché sappiamo che in questi casi sono abbastanza presenti. Che importanza può avere un sostegno di questo tipo? Allora, tutti i segnali sono importantissimi. Il governo egiziano si sente in questo contesto molto sotto osservazione, quindi tutti i segnali che riusciamo a dare, anche la manifestazione di ieri in questo senso è stata molto importante, perché appunto per la prima volta in questa settimana non siamo scesi in piazza solo noi associazioni, noi cittadini, ma anche le autorità, anche l'università proprio come istituzione. Quindi tutti i segnali che riusciamo a dare fanno sì di far capire che Patrick non è solo e che tutte le fasi di questo processo sono sotto stretta osservazione. Siamo stati tutti in trepidante attesa sabato per il riscontro dato dall'appello, che purtroppo è stato negativo, e saremo in altrettanta attesa per l'udienza di sabato, che come sappiamo purtroppo potrebbe essere rinviata di altri 15 giorni, che è, diciamo, la cosa che speriamo di meno. Quindi ogni segnale che si riesce a dare, ogni contributo è assolutamente importantissimo. Nico Staiti, docente dell'Università di Bologna. Si tratta di un appello a tutti i docenti dell'Università di Bologna, agli studenti che vorranno seguirli, di sospendere le lezioni per quella fascia oraria di venerdì e di venire invece in Piazza Verdi per un presidio condiviso con discussioni, dibattiti tra docenti, studenti e quella parte della popolazione che vorrà essere presente. Come valuti la reazione che sta avendo il mondo accademico in tutte le sue componenti su questa vicenda? Beh, la valuto positivamente. Quello era necessario che l'Ateneo di Bologna e il mondo universitario in generale, non soltanto a Bologna, si prendesse una posizione, la prendesse nei confronti del governo italiano perché possa agire verso quello egiziano e nei confronti direttamente dell'Egitto per rivendicare delle cose che appartengono a questa vicenda e per riportare in Italia questo ragazzo, e anche delle cose più ampie che riguardano la libertà di ricerca e di didattica, che sono evidentemente fondamentali per la funzione che gli atenei ricoprono. Nell'iniziativa che proponete per venerdì, quindi tutti i soggetti dell'università sarebbero coinvolti? Sì, sono coinvolti evidentemente su base volontaria tutti i docenti dell'università, i quali appunto sono invitati a interrompere le lezioni per quella mattina e a portare gli studenti in piazza. Ecco, che importanza hanno gesti di questo tipo? Hanno l'importanza di sensibilizzare l'Ateneo su una questione che lo riguarda da vicino, le componenti dell'Ateneo dal basso, appunto studenti e docenti, di trasmettere questa immagine di presenza alla cittadinanza e immediatamente all'Egitto, cioè di unirsi a quel coro di posizioni assunte pubblicamente che può giovare a garantire perlomeno una sorveglianza sulle vicende di Patrick Zaki. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali. Schiavo dentro una scatola, solo illuso nella realtà tra la fiaba e la verità. Nino è cieco d'avidità, di un consumismo senza pietà, dettato da quella scatola, ladra della felicità, che nessuno gli ridarà. Scivola, Nino, spegni la scatola, ladra della felicità, che nessuno ti ridarà. Completely, you give me love so sweetly tonight. The light of love is in your eyes. Will you love me tomorrow? Is this a lasting treasure, or just a moment pleasure? Can I believe the magic of your sight? Will you still love me tomorrow. Tonight with words unspoken, you said that I'm the only one. But will my heart be broken when the night meets the morn? I'd like to know that your love is love I can be sure of. So tell me now, and I won't ask again. Will you still love me tomorrow? So tell me now, and I won't ask again. Will you still love me tomorrow? Will you still love me tomorrow? Segna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. 9:30 minuti di questo 19 febbraio, mercoledì. Buongiorno a tutti, stai all'ascolto della nostra rassegna stampa all'interno per l'appunto di Radio Zanardi, che va a guardare la sostenibilità e l'impresentabilità di questa maggioranza che da sempre peggio mostra di sé, e quindi non si sa fino a che punto possa tenere questa situazione di continua fibrillazione. I giornali poi naturalmente ripetono instancabilmente i titoli giorno dopo giorno. Oggi per esempio siamo al Corriere della Sera con questo Conte alla sfida con Renzi, non è una notizia di ieri, di domani, di dopodomani. Lite sulle intercettazioni, poi tregua. Il Premier pensa ad una verifica in Parlamento. Ci si domanda, chiaramente con un certo stupore, se davvero qualcuno pensa che questa logica della guerriglia continua possa essere andare avanti all'infinito, o se comunque si arrivi a un momento che anche magari pur senza volerlo il meccanismo scappa di mano, e sembra che stia succedendo questo. Il Messaggero apre con invece un altro tema che vede divisioni in maggioranza. Migranti, scudo per i ministri, anche qui abolirli, migliorarli, lasciarli com'è, anche qui c'è differenziazione estrema. La Stampa, governo Conte sfida Renzi, lo aspetto in Parlamento, e in questo c'è il tema dalla Stampa che è accordo sulla giustizia, ma Italia Viva minaccia la rottura, intanto per cambiare. Il Premier è pronto a chiedere la fiducia in aula, e Marcello Maddalena scrive: prescrizione, pretesto per litigare, perché l'impressione è quella che ogni cosa sia buona per punzecchiare il primo ministro, perché Renzi sembra avere come bersaglio grosso la cacciata di Conte per mettere poi bene non si sa chi, ma questo è un altro discorso. Allora Conte replica dalla Stampa, Conte parenti decide se sta dentro oppure ci vediamo in Parlamento. E retroscena, appunto, la prescrizione è pure un pretesto, anche se è vero che ci sono certi guai familiari che la prescrizione non fa schifo, ma comunque la strategia del rottamatore, così commentata politicamente parlando, tensione continua sul Premier. Renzi, più guai penali che voti. Qui entriamo invece nell'alveo 5 Stelle col Fatto Quotidiano. Da Consip all'Air Force si indaga per truffa. Il GIP fa pezzi non so le non indagini romane su Papa Tiziano. Lotti, Verdina and Company, svolta nell'inchiesta sull'aereo blu, costato 26 volte il suo valore. Lui intanto fa campagna acquisti, perché qui c'è la gara a chi è più responsabile. Ieri uno da Idem e l'altro niente un po' di meno che da Leo, seguendo magari il predecessore migliore, passato dalla sinistra alla destra. Questo è Tengo Famiglia. Ma andiamo avanti ancora. Renzi fiducina Conte, e qui il Gazzetta del Mezzogiorno fa questo sforzo di fantasia per trovare il modo diverso per commentare sempre la stessa notizia. E la notizia, e torniamo in casa 5 Stelle, Renzi annuncia rinforzi, ma il governo può andare avanti anche senza di lui. Anche questo è un gioco da entrambe le parti a poker. Ma e poi abbiamo il Riformista, che naturalmente invece va nel merito, dai addosso ai magistrati con Sansonetti, e apocalittico, questo per la prescrizione. Avremo tutti un PM in casa, nasce l'Italia modello DDR, né più né meno. E allora vediamoli questi, come dire, questa partita a scacchi sintetizzata dalla Repubblica nel titolo di apertura di oggi. Operazione Salva Conte, un gruppo di senatori lascia Forza Italia, l'ex ministro Romani dice saremo interlocutori dell'esecutivo, con Renzi pronto a sfidare il presidente del Consiglio, non mi rappresenta più, o cambia o farà meno di noi. E la risposta di Conte, se Italia Viva vuole uscire, affrontiamo la crisi in Parlamento. Insomma, lo strappo è vicino, secondo Repubblica, peraltro con i responsabili in campo, pronto il gruppo al Senato, questi forzissi in uscita, Romani, De Poli, Quagliariello, quindi nomi noti, mentre passano a Italia Viva l'ex PD Cerno, giornalista, ex giornalista della Repubblica, e la deputata Rostan, ex Leu. Insomma, è davvero mercato aperto, a differenza del calcio non c'è nemmeno un limite di tempo, un paletto temporale. Tanto che il Manifesto oggi parla di pentola a pressione. La guerra dei nervi scatenata da Renzi si mimetizza con un doppio voto di fiducia oggi sul decreto mille proroghe, tra oggi e domani sulle intercettazioni. Ma ormai il fuoco amico contro il governo è un crescendo, dalla prescrizione alle nomine alle elezioni regionali. Quindi questa pentola a pressione, che anche secondo Manifesto ormai è sul punto di saltare, ovviamente si nutre anche di questo scouting contro scouting. Renzi appunto annuncia nuove sorprese e dice stasera guardate porta a porta, quindi ancora una volta porta a porta si conferma, diciamo, la terza camera del Parlamento, anche quando semmai ne aboliranno una, dubito che invece si arrivi a cassare la trasmissione di Vespa. Renzi appunto è rientrato in anticipo dal Pakistan furibondo, così lo descrive il Manifesto, e ha ricominciato subito a martellare Conte. La domanda resta però sempre la stessa: quanto può durare questo stato di ostilità permanente che non arriva mai a esplodere ma che tiene il governo immobile? E tu già citavi la riforma del taglio dei parlamentari, ricordando che sabato alle 9 c'è questo incontro a Bologna per discutere il fronte del no, quelli che dicono non si tagliano i costi della democrazia, magari si tagliano gli stipendi ai parlamentari, in particolare quelli delle grandi segreterie, quelli che non rischiano nulla e si fanno coraggiosi con il pelo degli altri, per dirlo in maniera gentile, mentre il proverbio bolognese è molto più volgare. Comunque, e allora la nuova legge elettorale prima del referendum. Il PD sprinta, il 5 Stelle dice no. avevano giurato e spergiurato che sarebbero arrivati al taglio dei parlamentari con una legge elettorale che in qualche modo riequilibrasse lo scompenso che questo porta sia in Camera che in Senato, e invece questo non succede, ed è difficile che succeda, visto che tra i tanti temi in discordia ci sarebbe anche questo, che forse è uno dei più pesanti, anche perché per la propria misura le elezioni e non le elezioni. Ma nel frattempo abbiamo la giustizia. Scontro sulle intercettazioni e tregua in extremis. L'uso sarà ammesso se rilevanti e indispensabili. Naturalmente questo va ad arbitrio di chi fa le indagini, quindi sarà un'altra materia di quella legge italiana che è così è se vi pare in pirandelliano. Ma andiamo avanti. E questo, andiamo avanti con la stampa. Dal Premier Italia Viva solo una prova muscolare. Ormai c'è appunto questa personalizzazione deteriore dello scontro Renzi Conte. Renzi forse convinto che personalizzando questa sfida l'OK Coral di conseguire maggiori consensi, polarizzando anche l'elettorato su Tizio o su Caio, e vedremo magari poi vince Sempronio del centrodestra. Comunque si apre il fronte intercettazioni nel Corriere. Al Senato Italia Viva contro il governo, salta l'emendamento Grasso, poi la tregua dopo ore di tensione, slitta il voto, stallo sui decreti sicurezza, facendo fare ancora una volta un'altra figuretta al Parlamento su questo ennesimo rinvio, su cui naturalmente a destra si insinua come un cuneo, perché a destra sente appunto l'odore del sangue elettorale. Alfonso Bonafede, ministro, i decreti sicurezza dei 5 Stelle, posizione nota, interveniamo solo sui rilievi dati dal presidente Mattarella, c'è un confronto in corso e non sarebbe rispettoso agire. Quindi diciamo che anche sui decreti di Salvini, cui parleremo, c'è qualcuno che tira indietro. Sta di fatto che insomma per adesso il fronte intercettazioni telefoniche sembrerebbe solo rinviato in questa guerriglia. Buonasera, dottore. Amore mio. Sì, mi dica. Non resistevo più, pensavo a te. Ah, bene, direi che è importante. Quando verrà? Ma adesso non so, dipende. Non parlare. Lascia parlare me di sì o no. Certo. Ma vieni appena puoi, anche tardi se tu vuoi. Tanto non dormirei, quanto mi manchi, non sai. Mi ami o no? Ci può giurare, dottore. Io di più. No, non credo. Ma lei adesso vicino a te. Sì, sì, senz'altro. No, ho sciolto tutti i capelli giù e ho il profumo che mi hai dato tu. quello che vuoi, però stasera non dirmi no. D'accordo, dottore, se è proprio necessario, vengo. Adesso chiudo, non vorrei fare sospettire lei. Stia tranquillo, adesso farò un salto da lei. Buonasera, dottore. Mina, buonasera dottore, intercettata e pubblicata sulla prima pagina di Libero. Comunque andiamo invece a quello che Alessandro Robecchi dal Fatto Quotidiano definisce Giorgia e Matteo, i nuovi Sandra Raimondo della sitcom politica, perché c'è una grande sitcom, sembra il Big Bang. Uffa che barba, Salvini perde consensi mentre Meloni li acquista, apparendo quasi moderata di fronte ai deliri estivi di una Zanna prosciutti. Questo è il commento, l'identikit che dà Robecchi di Matteo Salvini. Allora veniamo a questa coppia, cominciando da Giorgia Meloni. L'intervista è al Corriere e la raccoglie Paola Di Caro. Se cade il governo c'è solamente il voto, questo è il mantra, però continua a leggere, Matteo sta trattando, mi pare impossibile, sì, perché sempre più dei rumors accreditano un'idea tra Matteo e Matteo, tra Salvini e Renzi, o Renzi e Salvini a seconda se volete essere centrodestra e centrosinistra, per far cadere il governo, per istituire un presunto governo elettorale che andrebbe fino a settembre, dopodiché immagino che non si può andare a cadere con un governo con la finanziaria alle porte, e dopo si va fino a gennaio, insomma, risica che rosica. La leader però di Fratelli d'Italia sulle regionali, la Lega, ha fatto un patto. Il no al proporzionale, sarebbe molto grave se altri nel centrodestra trattassero per tornare al sistema proporzionale, perché naturalmente quando gli conveniva la signora Meloni il suo partito rompere il proporzionale, adesso che invece fanno i conti sul maggioritario sono maggioritari, questa è la credibilità istituzionale fatta d'uso e consumo del momento personale, delle proprie convenienze. Ma si parlava delle elezioni regionali, allora faccio come il Gambero nella pagina precedente del Corriere con Angelo Agrippa, Salvini, la partita del sud e delle piazze, i leghisti in visita, Napoli blindata, presto il nome per le regionali, dialogo anche col premier pur di votare, ed ecco che la cosa che fa impazzire la Salvini, la Meloni era una crasi, una sintesi del centrodestra, la Salvini. Invece vengo a un uomo del centrodestra e nel centrosinistra, De Luca, governatore della Campania che vuole ricandidarsi. De Luca non molla e cerca le sardine che lo gelano, divisivo si faccia di lato, ancora stallo per la candidatura in Campania, Costa io sono a disposizione. Questo è quello che arriva dalla pagina del Corriere, mentre vado allora in Campania ma con il Fatto Quotidiano. Salvini in ruspa a Napoli, sembra un campo rom, così tanto per dire, una volta c'era Forza Etna, adesso e fa melina sul caldoro, non conta il nome del candidato ma la squadra, mentre Fitto, che sembra essere gettonatissima nei sondaggi centrodestra in Puglia, comunque sempre il no di Salvini. Quindi c'è tutta questa vicenda delle candidature tutta da risolvere. Nel frattempo c'è anche un'altra giunta che cade per peculato, corruzione, la giunta Ostana, e si andrà a votare anche sotto il Monte Bianco. Allora, il manifesto appunto oggi segue Salvini in tour, che appunto con questo pensiero rivolto a Napoli, il leghista non scioglie la riserva sul candidato campano e guarda alle amministrative. E anche dalle pagine del giornale abbiamo Salvini che vuole solo il voto, parlo anche con Conte, come a dire, proprio sono disposto veramente a tutto. Con sul caso Open Arms non c'entro, il caso della ONG in giunta al Senato, mentre appunto, come diceva già Alfredo, la Valle d'Aosta torna alle urne il 19 aprile dopo l'inchiesta sulla 'Ndrangheta, che evidentemente, insomma, è andata a svernare anche nella piccola valle. Lo ha stabilito appunto il presidente ad interim Renzo Testolin. In Puglia invece Fitto vola nei sondaggi, ci dice il giornale, ma il Carroccio non lo vuole. Il candidato, appunto l'ex presidente peraltro, proposto dalla Meloni, staccherebbe Emiliano di 14 punti, distanza minore con un altro nome. Queste sono appunto è quello che si muove nell'arcipelago delle amministrative, peraltro da dove emergono anche dei volti, anzi dei volti non dovrei dirlo, perché dei nomi nuovi, anzi nemmeno nomi posso dire, perché la Calabria, appunto la neogovernatrice della Calabria Iole Santelli, ha tirato fuori il suo asso dalla manica, è appunto il neo assessore all'ambiente, l'ex capitano ultimo che faceva parte del comando appunto che arrestò Totorina. Santelli chiama in giunta il carabiniere Sergio Di Caprio, con tanto di passamontagna, ultimo neo assessore all'ambiente, oggi con tanto ovviamente di foto su tutti i giornali. Nel frattempo, a proposito di Salvini, leggo dalla Repubblica, si cerca l'accordo sulla questione migranti, appunto decreti di sicurezza, si parte da un'intesa minimal, quindi molto al ribasso tra i giallorossi, con le correzioni del Quirinale e i permessi speciali, anche se la ministra Lamorgese lavora una legge più ampia, però insomma più ampia è molto facile, visto che si parte veramente da una intelaiatura scheletrica. Il testo, appunto, un testo che contenga le modifiche richieste dalle osservazioni di Mattarella, quindi è questo il piano A e il piano B anche. Poi l'ampliamento può arrivare dopo, e il Repubblica condisce questo difficile percorso con la storia di Bacari. Bacari Pozzi Dandio, 23 anni, figlio di italiani, cancellato dalle leggi Salvini, adottato da una coppia di Melegnano quando era già maggiorenne, ora è senza permesso. Con tanto di, anche qui, con condimenti vari, un anno fa la svastica e gli insulti razzisti sull'androne di casa, questo tanto per gradire, ma quasi come se non facesse più notizia. E d'altronde, a proposito di notizie, il Carlino oggi riporta appunto, anche il Carlino riporta notizie per quanto riguarda i movimenti di Salvini. E peraltro il giornale invece oggi segna una linea di demarcazione molto molto precisa, e lo spunto viene in quella che definisce l'Italia dell'odio, viene in qualche modo sintetizzato da questo bacio: il bacio di Liliana Segre allo studente di destra della Sapienza, uno schiaffo a Gino Strada. E vediamo questa divisione appunto molto netta che fa il giornale. Il medico sprizza rancore ed evoca il nazismo, lezione d'amore invece della Segre, superstite della Shoah, che ha abbracciato durante la cerimonia della laurea dottorato honoris causa in storia dell'Europa alla Sapienza, abbracciato Valerio Cerracchio, che ha tenuto il discorso a nome degli studenti e che è apertamente schierato a destra. Poi il giornale, tanto per ancora rinfocolare il tema, va a Torino. L'Università di Torino chiude le porte a chi non ha il certificato di antifascismo. Il rettore dice: chi usa le nostre aule deve rispettare i nostri valori. La replica del FUAN: non abbiamo nessun problema a firmare un documento che ribadisca il nostro essere democratici. Naturalmente si vede cosa si intende per democratici. Comunque, detto questo, si torna su Ultimo. L'assessore mascherato, così lo definisce né più né meno da Catanzaro Carlo Macri dal Corriere, e effettivamente c'è la foto di lui che si presenta in conferenza stampa con la sciarpa sul volto, anche se è una legge che impedisce il travisamento in realtà. Comunque chissà, sarà qualcuno ricorderà, qualche amante rock progressivo, i Residents, che suonavano con una sorta di grande occhio sulla faccia per non farsi riconoscere, e i musicisti cambiavano anche sotto ed era un mistero. Potrebbe essere anche questa una nuova forma dell'assorato, un assorato mascherato, e poi cambiano a seconda dei momenti senza fare nessun rimpasto. Comunque l'annuncio Montecitorio della neogovernatrice Santelli seguirà rifiuti e ambiente, di cui parleremo più avanti. Nel frattempo, sarà perché si avvicina l'8 marzo, ma Salvini ha deciso di tornare all'attacco sull'aborto nei giorni scorsi, e facendo per lui un meraviglioso sintesi tra aborto e migranti, quindi bastona uno, bastona quell'altro, ma non è sufficiente, perché se andiamo invece in Piemonte, nella pagina locale della stampa, quella Cronaca di Torino, anzi, l'assessora leghista Chiara Caucino ha parole su minori e famiglie, che scatenano la polemica sulla giunta regionale, perché lì governa il centrodestra. Cosa ha detto l'assessora? Ha detto: affidi, non accetto critiche da donne che non hanno avuto figli. Quindi vediamo che le donne che invece di fare figli come brave formichine hanno fatto le cicale, hanno solo divertito fino ai 50 anni eccetera, non hanno diritto di parole sulla cosa comune, collettiva. Questo è il pensiero della signora Chiara Calcino, assessore regionale e ai bambini, giù le mani dei bambini, verrebbe da dire. Comunque le opposizioni dicono si dimetta. La replica: non ho offeso nessuno, no? Come il bacio non ho offeso nessuno. Il dramma dell'allontanamento può capirlo solo una madre. Quindi, allora, non solo può intervenire sulla legge le donne che hanno avuto figli, ma neanche i loro papà, perché solo la mamma, con la voce del sangue, può parlare di questa legge. È molto avanzata come visione. È inqualificabile che un sindaco partecipi ad una manifestazione politica contro il disegno di legge della giunta regionale, riferendosi alla Chiara Appendino, che ha vibratamente, io dico giustamente, protestato questa posizione medievalista. Ma ancora, guardiamo forse sempre in omaggio alla vicinanza dell'8 marzo, il Tempo, giornale della destra romana, che così titola: Zingaretti paga le amiche del Partito Democratico, come buttare i nostri soldi, sai, chi paga Pantalone, no? E vediamo cosa ha pagato Pantalone. Il Presidente della Regione offre 700.000 euro annui alla Casa delle Donne di Maura Cussutta. Da anni lei occupava abusivamente un immobile, atta che Virginia Raggi le voleva sbattere fuori, e quindi abbiamo garantito una casa delle donne, mentre tutti dicono bisogna evitare l'olio, e poi tanto si cacciano le donne dalle case di organizzazione delle donne. Comunque, torniamo sull'aborto, perché gli attacchi di Salvini all'aborto, che sono solo gli ultimi della lunga serie. I prossimi 8 e 9 marzo, non una di meno, torniamo appunto al Movimento delle Donne, tornerà in piazza per lo sciopero femminista, che tra le rivendicazioni include anche il tema della salute e l'autodeterminazione della donna. Su questo ascoltiamo le parole di Noemi, di Non una di meno di Bologna. Sentiamo le sue parole. Quest'anno la sfida si raddoppia, e come sempre le nostre rivendicazioni sono tutto tondo su quella che è una nuova idea di società. Sul tema della salute in particolare, ovviamente, come abbiamo scritto nel nostro piano contro la violenza maschile di genere, noi consideriamo la salute come benessere psicofisico, sessuale, sociale, e chiaramente l'espressione della libertà di autodeterminazione delle singole e dei corpi. Quindi la salute non è una semplice assenza di malattia, e pretendiamo che non vengano attuati percorsi di patologizzazione o di medicalizzazione di quelli che sono invece aspetti cruciali della propria esistenza. Per questo siamo contrari alla rettificazione neonatale, che avviene chiaramente come operazioni chirurgiche senza consenso e pratiche mediche e farmacologiche messe in atto sui corpi di neonati fin da piccole, delle soggettività intersex, o che non sono perfettamente conformi alla quella che è considerata norma binaria. Come allo stesso tempo siamo contrari chiaramente a una patologizzazione dei percorsi di transizione per le soggettività trans, per quanto ovviamente rivendichiamo invece per chiunque voglia l'accesso alle terapie ormonali e all'accompagnamento di quello che è un percorso evidentemente sulla decisione dell'individuo. Riteniamo chiaramente che l'accesso ai servizi, al welfare in generale, debba essere universalistico. In questo senso evidentemente vogliamo che ci sia l'inclusione di tutte le soggettività, e non solo di quelle bianche, giovani, abili, eterosessuali e native di questo paese. Ma soprattutto una delle rivendicazioni cardine, che è anche quella che c'era negli 8 punti per l'8 marzo di 4 anni fa, e che mi sembra che ad oggi sia ancora più attuale, rispetto chiaramente a quello che noi consideriamo

E quindi, perché poi in questa storia della cooperativa La Baracca, Cappuccetto Rosso senegalese non ha più, non vede più il lupo, ma trova neanche Salvini, ma trova una iena. Quindi questa cosa fa impazzire Bignami, che dice: trovo inaccettabile che temi di natura chiaramente politica, surrettiziamente presentati come formativi, vengano imposti nell'attività scolastica ai bambini che le famiglie affidano a scuola per ovvie ragioni didattiche e non certo per vederli sottoporre a un'attività propagandistica e politica. Anche per, e poi, se qualche docente figlio di culture santottine intende fare attività politica, si candidi. È il solito discorso, no? Che fanno su chiunque faccia qualcosa. E allora la dirigente Loredana Bilardi: volevamo solamente incuriosire i ragazzi. E poi, ma non basta Cappuccetto Rosso senegalese a far imbizzarrire Galeazzo Bignami, perché dice: il 25 aprile Bella Ciao sarà cantata come un inno, come se fosse un inno. È assurdo. Potrebbe chiedere a par condicio, lui che viene fuori dall'MSI con Almirante, no, fucilatore di partigiani, che si canti anche vicino Facetta Nera, chi lo sa. Comunque, passiamo ai temi della grande finanza. La grande finanza, perché è nato un campione. Quindi non so se sarà un futuro Pelé o Aldo o CR4. Comunque è come il campione, la parola più usata dei giornali, con l'operazione Intesa San Paolo Ubi, cioè fusione di banche, un campione più forte in Europa. Messina, questo non è, quindi non si parla di basket, ma si parla di finanza. Siamo i primi a lanciare un consolidamento, motivo d'orgoglio per il paese. Infatti stamattina mi sono alzato ed ero molto più orgoglioso di essere italiano con questa notizia. Mi sentivo il nucleo degli azionisti parte tipido sull'offerta, la banca resti centrale. Favorevoli gli investitori istituzionali. Oggi c'è il consiglio, questo è. Nel frattempo c'è anche il grande riassetto con l'aiuto di Unipol e BPR, alla compagnia di Cimbri 1,2 milioni di clienti per l'Istituto Modenese, doti di 500 sportelli. E qui anche dalla pagina della stampa, dopo il Corriere: Messina, nasce un campione. Intesa San Paolo con l'Ubi sarà la terza banca d'Europa. E allora chi intervistano? Tal Carnevale Maffè, l'ennesimo bocconiano, signor Bocconi ne abbia ne sforni un al giorno di sapientoni. Mercato estero rischioso, crescere qui non è male. E questo è la stampa. E poi naturalmente i giornali che, diciamo, con le banche hanno certe interessenze, sono tutti entusiasti di questa cosa. Anche il Sole 24 Ore, che evidentemente è difettoso in matematica, in algebra, perché leggo: altri 5.000 addetti in uscita, ma ci sono 2.500 assunzioni. Ora, se io, che non sono certamente un Einstein, faccio 5.000 meno 2.500, mi risulterebbe 2.500 persone che perdono posti di lavoro. Con una ulteriore cosa, che 2.500 escono, i 5.000 escono subito, i 2.500 sono promesse. Però il turnover, per la prima volta si applicherà il patto per l'occupazione che prevede un ingresso ogni due desuberi. Quindi è un po' un va a perdere, due perdi e uno entra, diciamo che puoi licenziarne uno. Per il traduttore volontario c'è 3.000 che riguardano Intesa e 2.000 l'Ubi. Sì, allora il giornale oggi apre proprio con questo tema, svolta nel credito. Super Banca d'Italia, così il colosso Intesa Ubi può scuotere il paese più del governo. Questa offerta pubblica, appunto, di Intesa San Paolo su Ubi, che scuote il mondo italiano finanziario, il mondo bancario e finanziario italiano, secondo Nicola Porro, destinata a diventare un punto di riferimento anche politico. Il presidente di Banca Mediolanum, Ennio Doris, non ha dubbi, è una grande operazione italiana che fa bene a tutto il sistema. Nasce questa superbanca e in risposta a quello ai tuoi dubbi, invece secondo i bancari che vengono sentiti dal giornale, i sindacati hanno già vinto: un'assunzione ogni due uscite, sempre con questa teoria matematica un po' discutibile, ecco. Nel settore 29.000 uscite, uno dei pochi settori dove le ristrutturazioni non si traducono automaticamente in catastrofi, ecco, questa è la chiave di lettura, perché il rapporto 1 a 2 è un rapporto non catastrofico, poteva andare anche peggio, ecco, questo è un po' il motivo per cui si può essere soddisfatti di questo piano, che anche il manifesto ribadisce, prevede 5.000 uscite e 2.500 assunzioni, quindi 1 a 2. Il governo informato da una telefonata dell'amministratore delegato di Banca Intesa Messina al ministro Gualtieri. Beh, è stato anche cortese, insomma, non gentile. Intesa UBI, un gigante europeo. Forse oggi la risposta appunto della banca a cui è stata fatta, su cui è stata fatta l'offerta. E questo però, secondo il Carlino, questo colosso da 50 miliardi dà il via a un risico, un autentico risico della finanza. Ad esempio Banco, BPM, Monte dei Paschi di Siena. Infatti il Carlino fa proprio uno schema con i giocatori in campo. Sbloccato lo stallo degli istituti medi, scattano le manovre per le prossime nozze, con stranieri pronti alla finestra. Insomma, è veramente una grande festa, un tripudio, come dice il Carlino. Sindacati prudenti. Beh, prudenti e bontà loro. Gualtieri appunto dice no comment, anche se è stato informato, quindi già soddisfatto per semplicemente per questo. Anche dalla Repubblica: nasce la quarta superbanca europea, cambiano gli equilibri della finanza. Repubblica va un po' anche dietro le quinte, cioè che cos'è, che qual è la grande novità al di là del appunto del mega accorpamento. Galassia cattolica e galassia laica insieme dopo decenni, ecco il grande matrimonio. Questa maxi banca con Bazzoli, centrale nell'istituto milanese come in quello bresciano, anche lui informato a cose fatte. Devo dire che le telefonatine le hanno fatte solo dopo aver fatto tutto il resto. Il risico riparte, il mercato crede nelle prossime aggregazioni, ma soprattutto dall'estero. Peraltro dall'estero ci arrivano anche segnali come questo. Segnalo uno dei colossi bancari del globo, HSBC, cioè HSBC, si appresta a tagliare 35.000 posti di lavoro entro il 2022. Qui non c'è nemmeno il contentino di un terzo, di un quinto, di un settimo di assunzioni. Quindi galassia laica, galassia cattolica, hanno trovato un dio unico, il dollaro e l'euro, questo è. Ma vabbè, è nato un campione. Una volta si pensava, nel mondo progressista, che era meglio avere diversi attori sul mercato per la concorrenza. Adesso invece facciamo l'apologia del monopolismo. E si dice anche, questo da destra, che potrà influire sul governo. Sempre meglio affidarsi alla finanza, che tanto bene ci ha dato negli ultimi decenni. E da queste amare considerazioni ne arriva un'altra, perché posso immaginare la quantità, anzi non riesco a immaginare la quantità di denaro che si sposterà in questa operazione. Invece il commento di Domenico De Masi è: con i poveri soldi non ci sono mai. Per banca, UBI o si trovano in un pomeriggio con una telefonata al governo. Per i poveri c'è un reddito di cittadinanza che sarà anche limitato, ma qualcosa da chi, no? Che è colpa di male d'Italia, e quindi non sente stradicare. Non parliamo poi di quello che è il salario minimo, ci mancherebbe. Allora leggiamo, con i poveri soldi non ci sono mai, dal Fatto Quotidiano con Salvatore Cannavò. Leggiamo anche: salario minimo, PD e imprese all'assalto della soglia dei 9 euro. Mi piacerebbe vedere PD e imprese all'assalto di questa confluenza bancaria. La maggioranza punta a ridurre la paga minima a 7,80 euro, ma estendendo a tutti la validità dei contratti collettivi. Retribuzioni: la coalizione cerca un accordo, però smonta l'idea di sinistra dei 5 Stelle. Naturalmente che quando fai 5 Stelle di sinistra va tra virgolette, va da sé. Allora, il governo Conte al lavoro per affossare il salario minimo, questo è Contropiano, giornale online comunista. CGL, CISL, UIL e Confindustria hanno sempre detto: non vogliono una legge sul salario minimo, e soprattutto non vogliono che la legge stabilisca una soglia minima di salario al di sotto della quale non sia legale scendere. Per loro il minimo salariale lo deve stabilire la contrattazione, e pazienza se poi oggi questo minimo è talmente basso che l'INPS ha calcolato in più di 5 milioni i lavoratori poveri di questo paese. Cioè i soldi per i poveri non si trovano mai. La controparte sarebbe la contrattazione collettiva per tutti, ma non è così semplice, perché se apre la pagina del lavoro del Sole 24 Ore: collaboratori a piccole dosi, è da gestire con attenzione. Rapporto di lavoro: le modifiche all'impianto normativo, le prime sentenze determinano un'equiparazione delle collaborazioni dal rapporto subordinato in un ampio spettro di situazioni, rendendo meno opportuni e convenienti questi contratti. E quindi, sì, limiti dalla iterorganizzazione, due problemi. Il primo è questo: come distinguere il semplice coordinamento dell'attività del collaboratore compatibile con un'autonomia con equiparata al lavoro subordinato dall'iterorganizzatore, che invece conduce a tale equiparazione? Questo hanno fatto talmente tanti quei milioni di contratti possibili che distinguere uno dall'altro è praticamente impossibile. La seconda condizione: nella pratica è stato dato che è semplice operare la distinzione tra coordinamento e iterorganizzazione, cioè tra autonomo e subordinato, anche perché l'indagine è volta a distinguere il potere unilaterale del coordinamento consensuale, qui naturalmente il 24 ore non leggerlo con le pinze perché devono tradurlo, dovrà investire tanto la fase genetica dei rapporti, quindi il contratto, quanto la fase funzionale di esecuzione del medesimo, e quindi non basterà redigere con cura il contratto, ma occorrerà essere pronti a dimostrare la consensualità di ogni momento, cioè quando fai firmare un contratto capestro al lavoratore o mangi questa minestra salta dalla finestra, lui è consensuale. E poi la seconda questione riguarda come se fossero subordinati. Quando hai un subordinato che lavora magari part time, devi assicurargli tutti i diritti tipo pensioni, malattia o ferie, oppure non devi assicurarglielo perché ci pensa magari un altro datore di lavoro? Ora, visto che per anni si è lavorato per difetto, potremmo cambiare il meccanismo e per qualche anno lavorare per eccesso, comunque gli garantisci tutti, dopo si vedrà. Dal manifesto, la pagina del lavoro, tu parlavi appunto del salario minimo, tavoli di maggioranza sul lavoro, la ministra Catalfo parla di accordo, già sceso a 7 euro da 9 euro lordi, quindi gara al ribasso, tanto che la segretaria della CISL Anna Maria Furlan dice basta la contrattazione, cioè insomma un principio quasi di minima. Poi abbiamo le acciaierie che sono croce e mai delizia direi, non solo l'Ilva, acciaierie di Piombino, gioco del cerino fra il gruppo indiano Jindal e il governo, gli indiani confermano la proroga di 4 mesi per presentare il piano, è un piano un po' elaborato, preoccupati i sindacati, ed è l'ennesima voce di preoccupazione. A proposito di sindacati però, non sono solo oltre che essere preoccupati, in alcuni casi sono incendiati. Foggia lo strano caso delle auto incendiate ai sindacalisti della FIM CISL. In pochi giorni colpiti 2 componenti della segreteria provinciale. E quindi poi tu parlavi di lavoratori. Senza pensione a 65 anni tocca continuare a lavorare anche in cantiere e succede di morire travolto dalla terra come ieri nelle Marche a San Benedetto del Tronto. Paolo Guarino, 65 anni, originario della provincia di Salerno, impegnato in una ditta campana in lavori appaltati dentro allo scavo per la posa di un collettore fognario, il terreno gli è franato addosso seppellendolo e non è stato possibile salvarlo e quindi è morto in questo modo. Andiamo nella stessa direzione, ognuno fa il suo, non cerco più competizione. Schiena contro schiena, stiamo al centro dell'arena. Schiena contro schiena, siamo anelli della stessa catena. Che vogliono spezzare ma non possono piegare. Chi ha capito il loro gioco? A 170 bpm rappresento per il DAB il suono metropolitano. Radio Bemba nasce tra il cemento, tra le case dove nasce il sole. Guarda lontano, hermano. Guarda lontano, hermano. Guarda lontano, hermano, guarda lontano attraverso gli occhi della gente che non tiene niente, meno di niente, sotto niente, zero niente. Dalle favela sarà Malavia, Genova, la repressione schiaccia. Testa bassa, questa è la prima cosa che ho imparato. Non sono servo dello Stato, no. Dimmi come ci si sente con un lavoro precario e una vita precaria. Dimmi come ci si sente con un lavoro precario e una vita precaria. E quando butta male Mr. Marley la tua musica ti scalda ancora il cuore. Dimmi come ci si sente con una vita precaria e un lavoro precario. Dimmi come ci si sente con una vita precaria e un lavoro precario. Yeah. Jim, come ci si sente? Canta Rudeman, ma non tanto bene da precario, evidentemente. Ma veniamo invece alle delizie del turismo. Spiaggia della Pelosa, vicino a Sassari, in Sardegna. Per sdraiarsi, ticket e braccialetto. Quindi più che andare in spiaggia, sembra andare a domiciliari. Sassari, da giugno, tetto di 1.500 ingressi giornalieri, biglietti a 3,50 euro. Il sindaco, dobbiamo tutelarla. Questo è quello che leggo dal Corriere, che riprende anche dalla Stampa. La perla sarda della Pelosa, prima spiaggia a pagamento, poi a prendere il sole si dovrà indossare il braccialetto colorato e biodegradabile, quello non poteva mancare. Nel frattempo invece la deputata della Commissione Ambiente Federica Daga parla sempre dalla Stampa di siccità, una stretta sull'acqua minerale, presto un piano del governo per contrastare gli effetti della grave crisi idrica, perché non piove mai, quindi già si pensa a un'estate assai difficoltosa. Misure specifiche per investire gli utili delle aziende in progetti ambientali, cioè le famose concessioni regalate alle imprese di acque minerali andrebbero riviste e utilizzare gli utili per bonifiche ambientali. Ma poi c'è la pagina della Scienza della Stampa, che ci parla dell'enzima sequestra la CO2, l'anidride carbonica, obiettivo impedire che il gas si disperda, ma non tutti gli ambientalisti approvano. E poi ancora abbiamo la mia fabbrica di idrogeno, super catalizzatore veloce, il green ideale per applicazioni industriali, nuove invenzioni. E infine, questo che riguarda l'agricoltura, dimmi a che punto è il grano, l'agricoltura al tempo di droni e OGM, naturalmente non riguarda la qualità del cibo, ma come in qualche modo domesticare i tempi della natura un po' ribelli ai tempi dell'industria e del commercio. Sì, e ancora per quanto riguarda poi l'ambiente, in realtà il Carlino oggi apre con la posa dell'ultima delle 18 pile del nuovo ponte di Genova, e quindi si parla appunto di modello Genova destinato a rilanciare l'Italia, di cantieri e quant'altro, mentre il Manifesto ci parla di ambiente digitale. Segnalo questa inchiesta di Tommaso Grossi, Big Data e algoritmi, lo stato sociale digitale è una realtà. Le innovazioni in campo biometrico consentono una riduzione dei costi in cambio dell'accesso privilegiato ai nostri dati. Cosa vuol dire? Cosa si dice in questo articolo? Che l'avvento del digitale ha permesso al settore privato di appropriarsi di grandi fette di servizi pubblici. Ad esempio in Germania, in Canada, negli Stati Uniti, zone d'ombra dove le grandi multinazionali di tecnologia proliferano, ad esempio i casi sono appunto di questi paesi che già ho citato, dove IBM ha contribuito a informatizzare i sistemi di assistenza sociale, oppure Mastercard e Visa, che in Sudafrica e Australia distribuiscono i bonifici sussidiari, compagnie che hanno un ruolo appunto spesso molto opaco. Devo dire che è un po' la faccia oscura della luna che viene segnalata sempre dal Manifesto con questa notizia. Entriamo nel grande capitalismo digitale. I sensi di colpa di Bezos, 10 miliardi per il clima. Il capitalista più ricco al mondo, il fondatore di Amazon, ha annunciato la creazione di un fondo per contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici. La decisione arriva un mese dopo che Amazon ha minacciato di licenziare i dipendenti che l'avevano sollecitata a prendere posizione sulla crisi climatica. Veniamo allora dall'ambiente al coronavirus, che evidentemente qualche rapporto con l'ambiente ha, e abbiamo il solito bollettino, ahimè, di guerra di questo contagio. Un italiano contagiato sulla Diamond, naturalmente questo caso della nave ancorata in quarantena al largo del Giappone fa discutere sulle scelte assurde di chi ha tenuto la gente a infettarsi l'un con l'altro invece di separarli in luoghi diversi nella loro quarantena terra. Poi abbiamo invece la nave Cambogia. Mentre tutti guardano la febbre negli aeroporti, in Cambogia si sbarca senza nessun problema e si scopre che poco prima un'azienda americana era ammalata, era affetta dal coronavirus, e che anche forse anche il marito, che ha la polmonite. Ora, se mai dovesse, Dio non voglia, attecchire il contagio in Cambogia, un paese come la Cambogia, di cui non conosciamo conosciamo abbastanza bene i dati igienici, di povertà assoluta, beh, francamente sarebbe la bomba nella bomba. Questo è quanto. Poi l'altro tema che dà la dimensione della gravità della vicenda in Oriente: Russia chiuse le frontiere da domani per i cittadini cinesi. Assolutamente, da domani. domani, oggi ci saranno un via vai di cittadini russi e cinesi in quella frontiera. Comunque, mentre c'è anche l'aspetto economico e colpisce anche i grandi colossi, Apple rivede al ribasso i ricavi, produzione in crisi fino a giugno, e poi questa mattina invece leggiamo che hanno riaperto GM in Cina, FCA e Toyota. Questo è quello che leggiamo dai flash agenzia. Sì, e ovviamente appunto il contagio in crociera viene riportato dalla prima pagina della Repubblica. L'italiano 72 anni sulla nave, situazione fuori controllo. Sulla Princess, un turista italiano tra i contagiati, il medico a bordo dice: qui è un inferno, mentre appunto in Cambogia tutti giù senza controlli. Quindi atteggiamenti opposti, e anche dalle, ovviamente dalle pagine degli altri giornali le ultime notizie che appunto fondamentalmente ci dicono che la situazione comunque non è cambiata di molto, ma la paura sì, perché abbiamo dal Carlino la paura appunto che viene da Oriente. L'OMS frena sul vaccino, sarà pronto fra 18 mesi, migliaia di medici contagiati, e dicono da Pechino sono i nostri morti. Ultime notizie di cronaca prima di passare anche agli esteri. Repubblica oggi ci riporta la storia di questo arresto a Palermo di Giuseppe Costa, affiliato a Cosa Nostra, perché riscuoteva il pizzo. Sua sorella Rosaria era la moglie di Vito Schifani, l'agente di scorta ucciso con Falcone, che dopo la strage ha lasciato la Sicilia. In una intercettazione si sente il boss dire appunto del fratello della vedova di Schifani: bravo, ha preso le distanze dalla sorella. E a proposito di mafia, c'è la protesta di Don Ciotti, un presidio in piazza Montecitorio per chiedere più diritti alle vittime dei clan. Segnalo anche pagine di cronaca, anzi diamo l'addio a un grande attore italiano, Flavio Bucci, scomparso a 72 anni, indimenticabile Ligabue in TV, una vita d'arte e di eccessi, talento e furore, appunto dice il Carlino, che riporta l'ultima intervista di pochi giorni fa proprio a Bucci sulla sua vita piena e maledetta. Orgoglioso dei miei vizi, appunto dice Bucci. E alla domanda profetica, quando arriverà la morte, risponde Bucci, sarà lei a doversi preoccupare di me, la farò diventare tutta ossa e alla falce le aggiungerò un bel martello. Sugli esteri cadono anche i miti intoccabili. A Washington gli scandali sessuali mandano in bancarotta chi? I Boy Scout. Quando si diceva vestono i bambini da cretini, gli adulti da bambini, questo era lo disse un famoso comico americano, e adesso pensiamo che questi marini con la gambetta sopra il ginocchio, che invece erano dei mascalzoni, stavano in fosso per la lunga. Comunque, andiamo alle cose più serie. Gezi Park, assolti tutti gli imputati, ma scatta l'arresto per 766 gulenisti, racconta da Ankara, la Turchia, La Stampa di questa mattina. Quindi clamorosa sentenza che dà rifiato all'opposizione su Gezi Park, c'è la rappresaglia poliziesca con dei ennesimi arresti in Turchia. Ma su questo abbiamo un contributo che arriva dalla regia per andare dietro le quinte del governo di Erdogan. Ne parliamo col giornalista turco Murat Cinat, sentiamo le sue parole. Grazie a un grande lavoro di solidarietà, assolutamente, dal 2013, ossia dal momento della rivolta popolare più grande della storia della Repubblica di Turchia fino adesso, e le persone che hanno partecipato alle manifestazioni di Gezi e coloro che le hanno in qualche maniera sostenute non hanno mai smesso di credere che era un laboratorio, in un tentativo di proporre un'alternativa al governo, alle sue politiche, scelte politiche, sociali e economiche, e per cui tutti sapevano che non c'erano criminali, non c'erano colpevoli, non c'erano delle persone da arrestare, condannare, e quindi non hanno smesso. Giudici, procuratori e una parte della polizia magari ha sempre lavorato contro questo fatto storico in collaborazione con il governo centrale,